È una decisione importante perché da un lato ha annullato l'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere degli ultimi che ancora erano in carcere, gli ultimi 4 detenuti, perché ricordo che altri 3 erano già stati liberati dal Tribunale del Riesame di Genova, tra cui Agurawa che era stato arrestato a Modena. È importante quindi perché annulla l'arresto di questi 4, o meglio annulla quello che è stata l'ordinanza, andando gli atti al Tribunale del Riesame di Genova che ha 10 giorni per fare un nuovo provvedimento, vediamo che senso avrà, ma che tenga conto delle nuove direttive che la Cassazione notificherà agli avvocati e al Tribunale del Riesame. Però è sicuramente importante perché da un lato annulla questa ordinanza per come era stata emessa da noi criticata e dall'altro dichiara inammissibile e respinge i ricorsi che la Procura di Genova aveva fatto per chiedere il riarresto, che venissero cioè riportati in carcere, coloro che erano stati precedentemente liberati. Quindi sicuramente un punto a favore delle difese, ma diciamo noi un punto a favore dello Stato di diritto. C'è anche un'altra questione che viene ribadita che è molto importante, cioè la inutilizzabilità, diciamo così, dei documenti che facevano parte di questa inchiesta provenienti da Israele. Sì, questo devo dire che da un punto di vista processuale l'aspetto fondamentale su cui noi come difensori abbiamo sempre insistito, è importante che su questo la Cassazione sia intervenuta, cioè questo è un processo che in massima parte, oltre a prove già acquisite nel corso degli ultimi 20 anni, ma che avevano già condotto a 2 archiviazioni, quindi che non erano mai state ritenute sufficienti a dimostrare che il denaro raccolto dai membri dell'associazione ABSPP e mandato in Palestina e a Gaza fosse denaro che avesse qualunque destinazione diversa dagli aiuti umanitari. Questa volta invece l'indagine andrà avanti con più decisione e tra l'altro con degli arresti, perché si erano aggiunte prove arrivate da Israele, che Israele aveva consegnato, come dico, loro spontaneamente, valigette di terabyte documenti che acquisiti dalle autorità militari israeliane erano state spedite in Italia. Ebbene, queste prove noi le abbiamo contestate per tanti motivi e quello è il fulcro, secondo me, del processo, perché sono prove anonime, cioè vengono portate da un funzionario anonimo israeliano dei servizi segreti di cui non sappiamo lo pseudonimo Avi, ma nemmeno sappiamo nome, cognome, grado e nulla. Sono state raccolte in teatri di guerra, sono state raccolte durante operazioni militari israeliane che sono state concordemente dichiarate crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Lo dico perché 7 di questi documenti sono stati acquisiti all'ospedale Al-Shifa, che tutti ricordiamo, demolito e arrestato nel direttore che è ancora in un centro di tortura. Sono state acquisite durante operazioni in passato a Jenin, durante operazioni Gaza, che sono state stragi evidenti agli occhi di tutti. Oggi ci vengono proposte come documenti estratti e estrapolati da agenti segreti israeliani, i quali fanno dei collage di documenti raccolti in queste operazioni che dichiarerebbero che le associazioni umanitarie destinatarie degli aiuti sono in realtà un braccio operativo di Hamas. Noi lo contestiamo, ma quello che è più importante, abbiamo contestato che in un processo in Italia, in un sistema di diritto come il nostro, si potessero celebrare processi alla israeliana, cioè processi dove le prove arrivano dai servizi segreti, estorte, spesso con tortura, e utilizzate senza contraddittorio della difesa. Quindi questo è un punto importante per ribadire che in Italia non possiamo adeguarci agli standard processuali israeliani. A tuo avviso questa inchiesta quanto ha risentito del clima mediatico e politico che c'era attorno appunto alla Palestina in quel momento? Io credo molto, credo anche che in realtà questa inchiesta abbia a sua volta contribuito a cercare di creare un nuovo clima, cioè nel momento in cui il mondo e anche l'Italia ha preso coscienza di quello che succedeva in Palestina e di quello che i palestinesi stavano subendo, un vero e proprio genocidio come dichiarano le corti internazionali, c'è stata la volontà di cercare un cambio di passo, questo da Israele che ha mandato questi documenti segreti e secretati, da parte del governo, vediamo una continua campagna, non ultimo il DDL antisemitismo per impedire le critiche al governo di Israele, tutto rientra in una nuova strategia che voleva colpire quel movimento di solidarietà verso la Palestina, impedendo le critiche e mettendo alla sbarra e in carcere, in questo caso, coloro che cercavano di manifestare solidarietà e aiuti attivamente. Quindi io credo che vada letto in questa chiave il processo, come veramente un attacco al movimento di solidarietà per la Palestina, che noi cerchiamo di respingere nelle aule, ma secondo me tutti i cittadini italiani dovrebbero respingere quotidianamente.